Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Diversi temi da sottoporvi oggi, anche per sentire la vostra voce, 800 24 00 24, numero verde, o per leggere ciò che ci scrivete, 349 238 6666. Allora, tanto per cominciare, siamo alla vigilia di Napoli-Inter, che si gioca domani, lo ricordo, in anticipo degli anticipi. Gara decisiva per due squadre che hanno un obiettivo, che è la Champions League, ma che sono dannatamente in ritardo su questo, per questo treno. Oggi ha parlato Pioli. Che sia una sfida importante per entrambe le squadre, credo di sì. Assolutamente, però non è l'ultimo treno per nessuna delle due, perché le partite che mancano sono tante. João Mario ha caratteristiche importanti, è un giocatore tecnico e sceglierò sempre comunque la squadra migliore per poter affrontare i nostri avversari e per avere più soluzioni per cercare di vincere la partita. Questo era Stefano Pioli. Sarà un fine settimana di grandi partite questo, da qui a Natale ogni fine settimana sarà un weekend di grandi partite. C'è una sfida di alta classifica che era impronosticabile all'inizio dell'anno, ma adesso lo è. Juventus-Atalanta si gioca sabato sera. Gasperini. Se chiedevate fino a poco tempo fa se la Juventus poteva temere l'Atalanta sul suo campo, sembrava un'eresia. Non credo che possa temere, può avere rispetto, quello sì, può avere rispetto di questa squadra che sta facendo bene e quindi questo accentuerà la loro attenzione, la loro concentrazione. Non è una cosa particolarmente positiva per noi. Per noi la prendiamo sotto questo aspetto: andiamo a giocare contro una grandissima squadra, la migliore in assoluto. Eh sì, la Juventus dovrà stare attenta. Gasperini, con una certa soddisfazione, lo ricorda tra le righe di queste parole. Domenica, tra poco arriva Pardo, arrivano gli ospiti, arriverete anche voi, 800 24 00 24. Domenica ci sarà alle 15 il derby di Roma, come al solito negli ultimi anni, in un clima surreale, senza le curve, storie di polemiche, di barriere divisorie. Eppure è una calcisticamente una grande partita per la corsa alla Champions League. In questo caso è Capello ad analizzare i due sfidanti. Inzaghi, una delle rivelazioni certamente tra gli allenatori di questa stagione, e Spalletti. Due allenatori preparati, perché mi sembra che Inzaghi abbia fatto passi da gigante, gli è servita la prima esperienza l'altro anno, quest'anno ha in mano la squadra, si capisce da tutto che ha in mano la squadra. Qualche problema di più di testa ce l'ha Spalletti. Ecco, la cosa importante, non solo come prepari la partita, ma come vai, con che testa vai a giocare la partita. Ecco, questa sarà la chiave del discorso. E questo era Fabio Capello. C'è poi Sinisa Mihajlovic, che ci regala una nuova perla da conservare nella nostra collezione, sui panchinari del Torino. Non significa che devono giocare bene per forza, però io devo vedere in campo la voglia, la rabbia, la convinzione di poter, di voler far bene, di mettersi in mostra, di fare e di dire quella merda di allenatore non mi ha fatto giocare, adesso vi faccio vedere io come si già, perché non mi fa. Invece così mi danno ragione, no? È quello che a me mi fa arrabbiare. Capito, Sinisa Mihajlovic. Intanto vi do una notizia che viene battuta ora, riguarda un allenatore italiano, Stramaccioni, che rompe con il Panathinaikos. Esperienza non felice quella di Stramaccioni. A proposito di allenatori, ma secondo voi fa notizia? Secondo voi fa notizia l'esonero numero 59 nella carriera del presidente Zamparini? Via De Zerbi, riecco Corini, che è sbarcato all'aeroporto di Palermo e ha detto queste cose. Ragazzi, poi faremo una bella chiacchierata, intanto sono felicissimo di essere tornato, so che è un compito arduo, ma con volontà, forza, e ci ritroviamo con compattezza tutti insieme, presi tutti i nostri tifosi, sono sicuro che è un obiettivo che possiamo raggiungere. Bah, non sono così convinto che il Palermo di quest'anno, nonostante tutto l'affetto e l'ammirazione anche per Corini, si possa salvare. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. tutti convocati. Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Tutti convocati come sempre all'800240024. È convocatissimo, è mister Emiliano Mondonico. Ciao Mondo. Ciao, ciao a tutti. C'ho un altro problema qui in cascina. Aia. Una femmina che è in calore. Aia. E perciò devo tenere a bada i maschi che ce l'hanno a morte con me, perché perché immaginatelo voi che molto ovviamente siete più esperti di me. E non so come fare a ritrovare con l'amicizia con i maschi. Perché... ci vuole tempo, ci vuole ci vorrà un po' di tempo, dai. Parlano di una settimana, 10 giorni. È che lei è proprio, cioè, quando sono in calore, loro vanno a cercare proprio. E mi tocca tenere d'occhio lei, ma soprattutto quello che mi dà fastidio è l'odio dei maschi nei miei confronti. Ma non ti preoccupare che farete la pace, Emiliano. No, ma adesso gli do da mangiare, magari vado a prendere qualche osso con la carne. O se no, fai così, mandali anche, in vacanza. Anche per me è meglio l'osso di niente. Se no, mandali in vacanza a Palermo per un paio di settimane. Tanto, poi Zamparini te li rimanda indietro. Ma prima pensavo come tu sia stato uno dei pochissimi allenatori italiani a non essere mai passato con Zamparini. Ma perché Zamparini ha dato sempre merito alla fortuna dei miei successi. Infatti da sempre lui diceva che i miei successi che ottenevo con le varie squadre era solo fortuna. Non lo so perché ha avuto questa immagine di me. Infatti io gli ho detto: oh, guarda che Napoleone sceglieva i suoi generali attraverso la fortuna, cioè non è una cosa negativa avere fortuna, però questo, diciamo, l'ha condotto mai a parlare con me, a sapere. Beh, ma non è detto che non è detto che ti sia andata male, andare da questi presidenti sono proprio i test che ti fanno dire: oh, meno male, perché altrimenti sei uno dei tanti. Niente, per lui io ero uno fortunato e chiaramente lui non riteneva che la fortuna fosse un merito. Sai chi è un altro fortunato? Amici come prima. Sai chi è un altro molto fortunato? Sì. Pierluigi Pardo. Come va? Ciao Pardo. Ciao ragazzi, come state? Come stai, Mondo? Bene, vedo questo incrocio con Savino. Mi ha fatto benissimo, perché anch'io, se ogni tanto vado a quella trasmissione, dico: guarda che bello, qui non c'è né sì o no, o né no, qui c'è proprio la così, tu dai a me, io do a te. Bravissimi, avete dato un'immagine di una politica politicamente corretta. Ma infatti è piaciuto a tutti, non c'è stato nessuno che si è arrabbiato. Comunque vi ringrazio, ed era esattamente questo lo spirito, insomma. Politicamente corretto, bravissimi. Io vorrei che tutti quelli che in questo momento decidono prendano conto di cosa vuol dire avere un qualcosa politicamente corretto. No, ma sarà stato divertentissimo, e poi in realtà in tanti altri settori è una consuetudine, insomma. Vedo spesso Zoro che fa le incursioni da Mentana e viceversa, insomma, ormai questa è una logica che esiste in tantissimi ambiti, quindi siamo contentissimi di averla fatta. È perfetto. Io prima parlavo dei miei problemi della femmina in calore, e ti dirò che i cinque maschi non è che litigano tra di loro, ma si danno a fare tutte e cinque. No, litigano con Mondonico, litigano col mister. Mi guardano male perché ci privi? Io cosa ne so, sai, non è che sia tanto esperto di questi connubi. Ma come no? Anche se dire i miei problemi... Per favore, Ma parliamo di politicamente corretto, ma soprattutto parliamo di calcio, perché penso che mi avete chiamato per quello. Sì, però dai, parliamo di calcio, anche perché anche la femmina in calore, vabbè, comunque. Lascia stare. In questo momento c'è l'Atalanta in calore. Sì, l'Atalanta, infatti. No, ma c'è il campionato in calore, mi pare, Emiliano, perché ogni weekend abbiamo almeno un paio di grandi partite. In questo weekend abbiamo domani Napoli-Inter, sabato sera Juventus-Atalanta e domenica pomeriggio, col commento di Pardo, il derby di Roma. Non so se ci vuoi aggiungere anche Sampdoria-Torino. No, ma infatti la sconfitta della Juventus a Genova, bene o male, ha creato, no, ancora questa speranza attorno al campionato italiano. Prima era bam, basta, non c'erano più problemi. Adesso ecco che la speranza ricomincia a tornare. Non so se è un bene o un male, Cioè, per qualcuno magari è un bene, per altri vorrebbero che tutto quanto vada come sempre andato. Ma io secondo me, che nel italiano non è il campionato che vince sempre quello, perché ogni anno c'è un qualcosa di nuovo. Io mi auguro veramente che ci sia competizione sino alla fine e non invece una fuga solitaria. E questo è un po' la mia idea. La partita dell'Atalanta a Torino non è che sia una svolta del campionato. No, però è una grande partita. È la prima volta che la Juve ha tutte le responsabilità. Guarda, a me è la partita che incuriosisce di più questa qua. Posso se dovesse vincere è normale, se succedesse il contrario o altre cose, è chiaro che quando una grande squadra, ti dico, con molti punti di domanda, perde due volte, e allora incomincia la crisi. E perciò diciamo che domenica c'è questa crisi che tutti ci chiediamo: c'è o non c'è? Ma secondo me c'era la primavera. È stata una rondine d'inverno. Che ha perso la strada. Non ci sono. Appunto, una rondine che ha perso la strada. No, ma prima, Pierluigi, abbiamo fatto sentire Gasperini che con un filo di felicità, di soddisfazione, diceva: sì, la Juve. Noi partiamo su Aboriti, facciamo la nostra partita, eccetera. Però la Juve dovrà dedicarci grande attenzione, e quindi questa sarà una difficoltà in più per noi. Sì. Io a Gasperini gli ho detto: guarda, che secondo me ci sono più possibilità che tu vinca in Coppa Italia che la Juve, che non in campionato. Perciò tu gioca come vuoi, fai quello che vuoi, però non dimenticare che secondo me l'Europa è più raggiungibile attraverso la Coppa Italia che non attraverso il campionato. E in Coppa Italia all'11 c'è Juventus e Atalanta. Sicuramente la Juventus impiegherà magari le alternative, quelli che giocano poco, per capire, cioè non l'ho mai capito, perché per capire se sono a posto uno deve aspettare la partita. Io vi alleno tutti i giorni e capisco se uno è in condizione e uno no. Devo aspettare la partita. Perciò anche lì ci sono tante situazioni, per modo di dire, perché abbiamo visto questa Coppa Italia come arrivare a 0-0 al 90esimo sia abbastanza naturale contro squadre di categoria inferiore. Certo, ecco perché certo, io dico l'Atalanta, giochiamocela sabato, però soprattutto giochiamocela l'11 gennaio. Certo, così. Ragazzi, vi propongo un giochetto. Vai. Avete voglia? Allora, Inzaghi, Gasperini, Mihajlovic, chi votate? Pardo? Fino a qui. Gasperini, però primo Gasperini, secondo Inzaghi, terzo Mihajlovic, però sono tre grandi imprese, quindi complimenti, perché hai beccato i tre che meritavano di stare su quel podio. Poi ovviamente Gasperini. Sì, tu, Mondo? Mihajlovic, perché è l'unico dei tre che prima ancora di cominciare il campionato ha detto: noi puntiamo all'Europa. Cioè, capisci che un allenatore che dice: no, prima inizio il campionato noi puntiamo un posto in Europa, cioè si gioca tanto, perché se non arrivi in Europa, e non è facile arrivare tra le prime cinque, chiaramente possono anche parlare di obiettivo mancato. Sì, eppure certo, questo si è presentato e ha detto: eccomi. Ecco perché io lo metto al primo posto, non per i risultati, perché i risultati tutti e tre mi hanno detto nel primo posto, ma proprio per questo modo di fare e di dire, per questa per questa convinzione che sa trasmettere a tutti, sia ai suoi giocatori che a tutti quanto l'ambiente. Guarda che non è una cosa, verifica tante volte. Dai, prendersi queste responsabilità non si verifica tante volte, certamente. Si mette le mani avanti, ma vediamo. L'obiettivo è salvarsi, metà classifica, poi vediamo, poi cercare di divertirci. Adesso conta i soldi che hai da spendere, no? Allora, adesso chissà perché dici no, noi abbiamo un budget inferiore, una balla e l'altra. Bravo, il fatturato. E voglio andare in Europa. Infatti al presidente è piaciuto molto questa dichiarazione. Guarda, ma anche a me di addetto o d'ex addetto ai lavori, veramente mi ha dato simpatia ancora di più per questo allenatore e per il Toro. Adesso non so se mi ha dato simpatia per quello che ha detto, perché allena il Toro. Però mettiamo insieme le due cose. Facciamo Toro. Senti, un'ultima cosa. Compriamo un attaccante, Icardi, Dzeko o Belotti. Per chi? In generale, per la tua squadra, per la vostra squadra. Fino a qui, ripeto, fino a questo punto della stagione. Chi compriamo? Ma mi dici tre giocatori con caratteristiche diverse. Sono d'accordo. Perciò è chiaro che... Allora, facciamo così, compriamone uno per il Napoli, visto che stiamo parlando di punte centrali. Uno per il Napoli... Icardi, Dzeko, Belotti. Icardi, come uno avrebbe... per il Napoli, Icardi. Pardon? Uno per l'Inter, al posto di Icardi, Belotti. Belotti. E Dzeko dove lo mettiamo? E Dzeko lo lasciamo alla Roma. E per l'Inter andiamo a prendere Cristiano Ronaldo. Ma per Milan, l'Inter prende Messi, ho letto in questi giorni. Messi, infatti tra poco lo chiediamo a... E allora, Messi all'Inter, Icardi al Napoli e Belotti abbiamo detto... Avevamo detto all'Inter. Belotti, lasciamolo al Torino, dai. Io invece ti dico che secondo me, per quello che hanno fatto fino a questo momento, il voto va a Dzeko, perché a parità di gol con Icardi, Dzeko secondo me è un giocatore che partecipa di più, quindi è un giocatore secondo me più utile anche quando non segna rispetto a Icardi. In assoluto, uno da comprare, ti dico sempre Icardi, nel senso che secondo me come margine di crescita è quello certamente più forte. Belotti sta facendo una grande stagione, ma arriva terzo. Però Dzeko fa il 10% delle occasioni gol che si presentano. Se vai in un'altra squadra, è chiaro che ti si presentano al massimo 10 occasioni. È vero. Bisogna stare attenti. Partecipa tanto. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che gioca per far finalizzare il suo centravanti. Però io metterei Messi all'Inter e Icardi al Napoli. Sono d'accordo sui Icardi al Napoli in questo momento. Sono d'accordo sui Icardi al Napoli, perché è veramente il finalizzatore che manca. Ma poi dopo ha anche quella sfrontatezza che ti fa giocare in una grande squadra, perché in una grande squadra è chiaro che devi avere un qualcosa in più, una sfrontatezza che poi si chiama personalità o fate voi, perché altrimenti non riesci a sopportare. E Icardi mi sembra invece uno che fa di questa sfrontatezza una sua prerogativa, ecco perché è l'uomo giusto per il Napoli, secondo me, come Messi è l'uomo giusto per l'Inter, secondo me, ma secondo anche tutti quelli che girano per le strade. Sì, ma guarda, adesso subito dopo la borsa ne parliamo. Intanto ti ringrazio, Emiliano. Mi raccomando, buon lavoro con i ragazzi. Grazie a voi e dirò alla femmina che è un po' enter, che ho parlato con voi, di stare tranquilla. Che al limite venite voi. Va bene, ok. Ciao, Emiliano. Allora, borsa, torniamo. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana storie di tutti i tipi al Falco e il Gabbiano. Enzo Maiorca, il signore degli abissi, con l'apneista Umberto Pellizzari. La tormentata vita di Jerry Lee Lewis, uno dei grandi geni del rock and roll. Un grande attore con un volto che non puoi dimenticare, Carlo Delle Piane. Edward Snowden che ci raccontò quanto tutti noi siamo intercettati e controllati. E poi la storia molto piccante del più grande playboy di tutti i tempi, Porfirio Rubirosa. Tutti i giorni alle 15.30 il Falco e il Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora Pardo, abbiamo scatenato gli ascoltatori come sempre, 800 24 00 24, numero verde. Tra poco parleremo anche del passaggio di Messi all'Inter. Sì. Parleremo del classico con Filippo Maria Ricci e di questa storia fantascientifica. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Dica. Felice di sentirvi. Intanto mi definisco un anti-juventino ad oltranza, sì, orgogliosamente. Va bene. Poi volevo farvi una domanda sul closing del Milan. Se non sbaglio, se dovesse andare a monte la trattativa, i soldi che i cinesi avrebbero versato rimarrebbero al Milan, mi sbaglio? Sì. No, non credo che si sbagli. Perfetto. Se così stanno le cose, non potrebbe essere un giochetto di una furbata di Mediaset che, oddio, praticamente vorrebbe far rientrare in Italia capitali oscuri, eccetera, Antonio, eccetera. L'abbiamo già sentita. Potrebbe essere anche la... No, io ho un'altra teoria. Dov'è la mafia bulgara? La mafia bulgara che il valore del lev, la moneta bulgara, è molto cresciuto in questi anni. Sì. Allora vuole far rientrare attraverso una valuta straniera dei capitali in Europa per poi, attraverso l'apertura delle frontiere, sto scherzando ovviamente, però sì, è per dire le strade cinese, delle maldicenze e del pensar male sono infinite, potrebbe essere anche un complotto appunto degli extraterrestri. La verità è che se lei sa delle cose che noi non sappiamo, prima di tutto complimenti. Ci sono magistrati, no? Magistrati, vai, che fanno un po' di più rispetto alle radio, hanno maggior potere. È dire che siccome questo versamento è ufficialmente arrivato, no? Il primo versamento, la prima tranche è arrivata. Esattamente come quando vai a comprare una casa, fai un compromesso, se poi non hai i soldi per paghi una caparra, rischi di perderla, per cui è abbastanza logico che il closing, è abbastanza di buon senso che il closing, visto che 100 milioni sono già stati versati, si concluda, si perfezioni. Sì, poi sui tempi ancora non sappiamo, oggi leggo che avverrà comunque in forse addirittura dicembre, forse verrà posticipato. Insomma, è una lunga storia, anche su questa poi torneremo con un altro. Per carità, che la vicenda sia da soppopera, io lo capisco, insomma, che possa destare una serie di punti interrogativi, ci mancherebbe altro, perché può essere tutto nella vita, e sicuramente non è stata una vicenda lineare, non è neanche come vendere un box, insomma, è chiaro che è una cosa un pochino più complicata. Però sicuramente la vicenda fin qui è stata particolarmente ricca di colpi di scena, particolarmente complessa, quindi che uno possa farsi tra i pensieri ci sta, però ecco, da qui arrivare a queste conclusioni mi sembra un po' eccessivo. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda una considerazione sull'esonero di De Zerbi a Palermo, che credo che sia uno dei pochissimi indiscutibili esoneri, perché si è vista una squadra senza anima, senza gioco, proprio una cosa assurda. Matteo, a me sembra abbastanza una squadra senza giocatori, poi mi sbaglierò. Per carità di Dio, oltre a questo, anche Zamparini ha le sue colpe, ma una cosa che doveva fare, doveva mandarlo anche via dopo 5 sconfitte in casa. Io credo che un altro allenatore dello stampo di Ballardini 5 partite in casa non le avrebbe perse, io ne sono sicuro, con quei giocatori lì. Però è impossibile, è una cosa atroce vedere giocare una squadra in quella maniera, cioè non giocare una squadra in quella maniera lì. Pardo, che ne pensa? Io vi saluto, buona giornata a tutti. Io penso che il Palermo sia di una povertà tecnica, mi dispiace dirlo, veramente imbarazzante, ma questo l'ho detto anche all'inizio della stagione, c'è Capuano che mi prende in giro perché nel fare la schedina all'inizio dell'anno su Inter Palermo gli ho detto uno visto, ma più per i demeriti del Palermo, poi sappiamo che quella è stata invece una delle poche giornate positive della formazione siciliana. A me sembra che il Palermo sia in difficoltà enorme, mi sembra veramente un insieme di giocatori molto giovani. Per farla breve, Pier, come ho detto io, manca di gioco, secondo me manca di giocatori. Poi sicuramente De Zerbi, sai, quando perdi così tante partite è ovvio che... Che va in discussione, poi figurati, con Zamparini che ne ha messi insieme 59 di esoneri, 35 da quando è a Palermo, quindi sono cifre da record, chiaramente da Guinness dei primati. Però la squadra ha veramente poco, allora, non posso permettere in questo momento. E a gennaio, se vuole salvarsi, deve fare un capolavoro. Sì, deve fare una rivoluzione più che un capolavoro. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Visto, te l'ho detto, lo stavamo aspettando perché adesso ci spiega attraverso quale vie Messi arriverà all'Inter. Cosa ridi? No. Cosa ridi? Ma per favore. Mi sembra una delle cose più... Cioè, va bene i sogni, adesso vedo che è stata questa parola, sono diventati tutti Martin Luther King, diciamo, intorno all'Inter, tutti che sognano, I have a dream, ma è impossibile, non ci sono i presupposti tecnici, economici, diciamo che... e pratici per realizzare un'operazione del genere. A parte questo però è fatta. A parte tutto questo, adesso leviamo i presupposti tecnici, queste belle parole, è fatta. Sì, è vero. Allora, facciamo un discorso, come giocherà l'Inter di Messi. Bravo, come giocherà l'Inter di Messi? Ti piace? Mi piace tantissimo. E poi lì Messi, Icardi e poi Panega, tornano gli argentini, sì. Magari torna Milito, non lo so. Torna Milito. Tanto. Sì, così, tutti gli argentini che anche cambiasse. E poi Mourinho a fare da supervisore. Intanto alla vigilia del classico leggo che il Real Madrid perde Bale, che starà fuori tanto fino ad aprile. Sì, l'aveva già perso, si è operato, così, e in più non ha cross, non ha Morata, e c'ha questo Casemiro che è rientrato ieri dopo un paio di mesi di assenza, vediamo come sta, e quindi c'è un interessante dubbio da risolvere. Ultimamente Zidane in emergenza ha fatto molto bene, molto meglio di quanto abbia fatto Luis Enrique, e domani lui deve scegliere, ci sono 5 centrocampisti per 4 posti, considerando che Ronaldo e Benzema giocheranno, ovvero Modric, Kovacic, Isco, Lucas Vázquez e appunto Casemiro, se è in condizione. E lì è difficile perché ha fatto giocare Isco, per esempio, benissimo contro l'Atletico nel derby, però non c'era Benzema. Sì, certo. Può fare solo il 10. Tu mi insegni che l'importante è che ci sia Casemiro, che è il giocatore chiave di questa squadra. Sì, però guarda come diciamo, il Madrid ha vissuto molto bene anche senza Casemiro. Questa è stata una sorpresa. Io sinceramente non me l'aspettavo e avrei detto anche scritto tutto il contrario. Li aspettavo al varco, invece sono andati bene. Adesso, chiaro, parlo rientrare, è rientrato ieri sera con la cultura leonese, vabbè, una partita ridicola, chiaro, il classico è un'altra cosa, però vediamo, e soprattutto il Barça è all'ultima spiaggia, il Barça deve vincere o sicuramente almeno non deve perdere. Certo, e di questo parliamo subito dopo il traffico, infatti, oltre che della nuova Inter con Messi, quale modulo, quali interpreti e tutto quanto, perché come ha detto Filippo Maria Ricci, ormai è fatta. Traffico. Ho qualche dubbio. Tutti convocati. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, la discussione è aperta con Filippo Maria Ricci e Pierluigi Pardo sul prossimo arrivo di Messi all'Inter, sul nuovo modulo dell'Inter, ma anche sul classico che si gioca sabato 16:15, Barcellona-Real Madrid, con questa volta il Barcellona sotto pressione, ha assoluto bisogno di vincere perché è già a meno 6 dal Real. Filippo. Come era a meno 6 l'Atletico Madrid 2 settimane fa, è perso 3-0 in casa col Real, è finito a meno 9. Per cui situazione pesante anche per la Liga, insomma, se vogliamo tenerla aperta. Eh sì, anche perché pure il Ciolo è a meno 9. Sì, il Ciolo è a meno 9, era a meno 6, è arrivato lì un Madrid pieno di pezze, poveretti, insomma un sacco di infermeria piena, però Zidane l'ha incartata al Ciolo. E vediamo come se la cava, perché adesso il vero problema del Barça spostandoci, diciamo che ancora finché c'è Messi, ancora adesso poi no, se ne andrà probabilmente, no? Però finché c'è adesso ha perso l'essenza del gioco. E non è il solito Barça, non è il Barça del possesso, del, no, del tocco. L'altro giorno ad Anoeta hanno toccato, sono entrati in area per la prima volta nel primo tempo, al 41esimo. Cioè, mi sembra una fotografia per il Barça. No, una cosa incredibile per il Barcellona. È semplicemente una cosa, cioè, forse storica. 41esimo. Forse storica. Sì, no? sicuramente. Cioè, la forza di Bale alla lunga quanto può pesare? Cosa? Vabbè, adesso lui punta. No, aspetta, non ho capito. Quanto può pesare che cosa? Cioè il fatto che il Barcellona. Madrid, nel senso che è chiaro che fino a questo momento il Real Madrid è la squadra dominatrice della stagione. Io penso che abbia ancora la possibilità di arrivare prima anche nel girone di Champions se riuscirà a battere il Borussia Dortmund. Mi chiedo, visto che l'assenza è molto lunga, quanto potrà pesare nelle rotazioni, no? Beh, però lui dovrebbe tornare per la Champions, che come al solito è il grande obiettivo, no? Salta il mundialito, però beh, è una cosa un po' abbastanza ridicola. E in campionato dipende un po', vediamo cosa succede sabato, però se escono indenni dal Camp Nou, sai, lì se la possono cavare, possono gestire, poi dovrebbe tornare per la Champions. Sì. E comunque dà spazio. Il problema è che stava giocando molto bene, un ottimo campionato. Però Lucas Vázquez è un ottimo sostituto, almeno per un po', insomma, e questo che il Madrid ha scoperto, diciamo, nell'armadio, una serie di giocatori interessanti, perché diciamo, abbiamo visto in questo periodo che non c'è stato Casemiro, il miglior Kovacic da quando è arrivato al Madrid. Certo, e anche questo nessuno se l'aspettava. Ha fatto veramente delle grandi partite. Per cui... Dimmi. No, chi è in difficoltà? Altra squadra in difficoltà, non solo il Barça meno 6, non solo il Ciolo a meno 9, ma anche Prandelli, che è quintultimo con 11 punti. Che succede a Valencia? Sì, che il Valencia si sapeva, era un caos, lo sapeva anche lui. E è chiaro che ha fatto, quante sono, 6 partite, ne ha vinte una. Si aspettava anche lui qualcosa di più, perché ha giocato anche con rivali dirette. Non lo vedo retrocedere. Secondo me miglioreranno, e dipenderà molto dal mercato di gennaio, no? Si parla di tanti italiani, non c'è interesse per chiunque, Zaza, Belotti, Gabbiadini, ho letto veramente tutti i nomi italiani possibili. Vediamo se viene, gli manca un attaccante. Posso un po' contestare la scelta di giocare con Rodrigo come 9 invece di Munir, però non aveva grande diciamo margine di manovra. È difficile, poi c'è un caos a livello istituzionale, questo presidente che sta a Singapore, la piazza che sogna la Champions si trova a lottare per non retrocedere, sono un po' isterici, insomma ce n'ha tante il Valencia. Cesare voleva allenare, comunque è un club ma ha fatto benissimo andare lì, esatto. Ha fatto benissimo, anche se non ha fatto bene, però la situazione è complicata, e vabbè, è il suo mestiere anche provare a metterla a posto se davvero hanno il grano per fare un mercato di gennaio come si deve. Intanto Pierluigi Pardo si sta preparando per una nuova sfida estrema. Vai. La super partita in Gattabuia tra Neymar contro Eto'o. Telecronaca della super sfida Neymar Eto'o in Gattabuia. No, ma non ci finiscono nessuno dei due, dai. No, però le richieste sono state mica tra luce e vino, cioè, sono anni di galera. No, caso di Eto'o, 10 anni di carcere. 10 anni, mi sembra pochissimo. Si potrebbe fare anche una lunga serie di telecronache di questi scontri. No, però al di là di questo, Filippo, che succede? No, la giustizia è abbastanza seria e tutta la colpa tutta al suo procuratore, Mesalles, che è un classico. Anche un grande classico dell'erotismo calcistico. Esatto, però il problema è che non ha ancora nemmeno pagato la multa, perché per esempio Messi, comunque, ridendo e scherzando, al fisco ha già dato una cinquantina di milioni. Sì. No? Per cui, e in più c'è ancora aperto, il procedimento non è ancora chiuso, però intanto gli era... Ah, giusto, alla partita in Gattabuia potrebbe aggiungersi anche Messi, che però potrebbe non andare all'Inter a quel punto, allora quel diventa punto, un problema. Certo. Oppure potrebbe andarci proprio per scappare dalle grinfie. Però a quel punto non giocherebbe le partite in Spagna. Esatto, vabbè, insomma, non è insomma, si può evitare la finale in campo neutro, dai, della Champions, dico ovviamente, no, visto che e no, torniamo a noi che mi fate perdere il filo. almeno poteva pagare qualcosa, questo dico io, per quello si è arrivati a questa richiesta clamorosa. Gli anni sono aumentati, perché per Neymar ne hanno chiesti solo tra virgolette due, no? Mentre per Eto'o 10, proprio per quello, perché non ha voluto sinora, diciamo, patteggiare niente. Allora, se ha ragione lui e se la cava perché si dimostra che effettivamente è stato raggirato, va bene, se no, attenzione. Comunque è anche facile che Eto'o a Barcellona non ci venga più e quindi Sì, sì. Come non è come, che è obbligato Maradona. Non è obbligato a tornare. Hanno messi peggio Neymar e Messi, Eto'o può fregarsene, insomma. Anche se comunque non è piacevole non poter andare. No, di sicuro. Vediamo come va. Va bene, ragazzi. Adesso vi saluto e vi ringrazio. E aspettiamo notizie da Filippo Marericci quanto prima sulla firma del contratto di Messi con l'Inter. Grazie per Luigi Pardo, a domani. Alla prossima con Filippo Marericci. Ci fermiamo per il genere, poi abbiamo un sacco di altri temi, compreso il Milan, compresa qualche chiacchiera sulle genovesi che se lo meritano, e poi Giovinco in finale del campionato americano. Aspettateci. Tutti convocati. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Dunque, al volo Fernando Tavares convocato, poi andiamo negli Stati Uniti perché adesso aspettiamo tutti la finale del campionato americano, dove ci sarà la grande protagonista, almeno lo speriamo, Sebastian Giovinco. Ne parliamo tra un attimo, intanto Ferdinando, buongiorno. Buongiorno, buonasera, comunque da Verona, gente, da Verona, Verona. E mi scrivono Varese. Niente, niente problema, gente. Io leggo Varese, mi perdoni. Niente, è un piacere per me, gente, parlare con lei, la seguo da sempre. Faccio l'autista io, comunque le do una chicca. Dica. Come la penso io sono milanista, mi manca il mio Milan, ho sempre guardato la Juve quando non c'è stato il mio Milan, sì. Però le dico che guardando la Juve in questi anni mi sono insegnato, secondo me il prossimo allenatore della Juve io scommetto che sia Zidane, io sì, voto, sì, io sì. Voto Paolo Sosa, però poi vediamo. Insomma, Zidane non occupa una panchina banale, non occupa una panchina qualunque, quindi non... adesso vediamo cosa succede, però io voterei Paolo Sosa come prossimo allenatore della Juventus, per vari segnali, per varie ragioni. Andrea, buongiorno. Andrea, dalla provincia di Treviso. Ah no, allora un altro Andrea, sempre da Verona, ma il nostro amico Andrea D'Amico, che si trova negli Stati Uniti, a Toronto, a seguire il suo pupillo Sebastian Giovinco. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Allora, una grande impresa, una grande semifinale, andata e ritorno con Toronto, che ribalta il 3-2 dell'andata e poi 5-2 all'overtime, e per la prima volta con Sebastian Giovinco il titolo americano potrebbe finire in Canada. Beh, io credo siano grandi giornate, no? Beh sì, la città qui vive, diciamo, un'eccitazione particolare, perché la comunità del calcio lo aspettava da tantissimi anni. Devo dire che già 2 anni fa, quando abbiamo firmato il contratto con Sebastian, e loro si aspettavano grandi cose. Purtroppo l'anno scorso sono usciti alla prima dei playoff contro Montreal proprio, e ironia della sorte quest'anno hanno vinto la finale di East Conference per arrivare in finale totale dell'MLS proprio contro Montreal, quindi veramente una bellissima sensazione, e adesso vediamo il 10 la finale con Seattle. Come sta il ragazzo? Come sta Sebastian? Si è fatto male? No, beh, è uscito per un crampo, però niente di particolare, ed è carico per vivere questa emozionante finale per questo campionato del nuovo mondo, perché comunque qui ti dico, la sensazione è veramente importante di questo progetto del calcio nel Nord America, perché considera che tra le due partite di andata e ritorno, Montreal e Toronto, ci sono stati più di 100.000 spettatori, quindi veramente un'organizzazione perfetta, un entusiasmo, e se ieri Toronto avesse avuto uno stadio da 70.000 l'avrebbe riempito. Sì, tu sai bene, siamo amici, sai bene come io fossi scettico al momento del passaggio di un talento come Giovinco, molto giovane, nel campionato americano, e lasciamo stare la questione di quadrini. Invece avete avuto ragione voi, perché credo sia anche per lui, insomma, tu ci parli tutti i giorni, tutti i minuti, credo sia anche per lui un'esperienza non solo di vita ma anche calcistica importantissima. Beh, indubbiamente, noi da distante siamo sempre portati a essere molto autoreferenti nei nostri confronti e sminuire quello che è il livello degli altri campionati, ma chi conosce questa realtà sa che c'è un entusiasmo incredibile, c'è molta professionalità, la Lega ormai si sta strutturando con realtà sempre nuove, adesso c'è la nuova squadra a Los Angeles, c'è la nuova squadra ad Atlanta, ci sarà nel 2019 la nuova squadra a Miami con Beckham. E, insomma, voglio dire, non è un fenomeno episodico, ma è una realtà importante che sta crescendo sempre di più, a testimoniare il fatto che il calcio a livello globale è veramente lo sport più importante, che muove gli interessi della gente, gli interessi economici, i diritti televisivi, come anche la Cina ha ben capito, e quindi gli investimenti ormai non sono più legati ai confini, ma a una geografia di interessi di televisiva, insomma, ogni evento è tale se è un evento televisivo. Certamente, Andrea, hai ragione. L'ultima cosa, hai fatto un lungo elenco di quello che ci sarà in America. Quando ci sarà di nuovo Giovinco in nazionale? Beh, lì è facile, basta chiamare Ventura, dipende da lui, non occorre scomodare tante persone. No, perché io ho sempre il pensiero che, cioè, e nessuno me lo toglie, che quando qualcuno dei nostri va all'estero, lasciamo stare a caso di Pelé, viene in qualche modo dimenticato, e questo non e di questo non capisco la ragione. Ma guarda, io lo dico molto semplicemente, ormai sono così pochi gli italiani che giocano in Italia, basta vedere che ci sono squadre quasi totalmente formate da giocatori stranieri, che comunque il compito del selezionatore, perché non ha neanche il tempo di allenarli, ha solo il tempo di sceglierli, il selezionatore della nazionale, è quello di andare a vedere tutti i giocatori importanti che giocano in tutte le parti del mondo. È chiaro che se poi magari lui pensa di far fare ai giocatori di talento un ruolo diverso rispetto a quello che stanno praticando nei rispettivi club, questo naturalmente sta a lui come formazione della sua squadra e tutto, però a mio avviso i nazionali devono andare i migliori giocatori, insomma, indipendentemente che vengano da distante o che vengano da vicino, e quindi vedere, non so, in nazionale alcuni nomi e non vedere Giovinco in questo momento fa veramente stridere. Sì, hai ragione. Grazie Andrea, in bocca al lupo. Ci sentiamo dopo la partita. Ci diamo un appuntamento la finale. Ci sentiamo all'11 allora. Un abbraccio. A te, grazie Andrea D'Amico. A presto, buona giornata. A presto. Andrea invece dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. E io sono tifoso del Toro, essere tifoso del Toro in provincia di Treviso è una cosa un po' strana, e devo dire che sentire il mondo è sempre una cosa meravigliosa. E gli do un consiglio: se vuol tenere i maschi tranquilli, deve separarli anche tra di loro. Ah, adesso lo chiamo e glielo dico, ma credo che lo sappia, perché ha una lunga esperienza di vita di campagna Emiliano Mondonico. Volevo dire una cosa, cioè, più seriamente. Intanto il Torino ha un gallo che fa le uova d'oro. I galli non fanno le uova. Questo è chiaro, lo sanno tutti, ma ha un gallo che fa calcisticamente uova d'oro. Senza ombra di dubbio. Dica. Volevo dirle più seriamente, purtroppo mi ha toccato tantissimo la vicenda della squadra brasiliana del disastro aereo. Loro vengono da una zona dove ci sono anche tantissimi emigrati veneti in quella zona del Brasile, quindi mi ha toccato in maniera particolare, quindi è quasi uno sfogo, visto che parliamo tra amici. Spero veramente che il Torino organizzi qualcosa assieme a questa squadra, perché ma potrebbe accadere. Un immediato ricordo, c'è stato un gemellaggio di sentimenti, già c'è stato, così come vale per la storia del grande United. Sono segni che ti porti dentro, sono segni che fanno parte del tuo DNA, e quindi io credo questo capiterà anche in maniera visibile e tangibile. Io saluto uno dei principi dei procuratori, del foro dei procuratori, Fabio Parisi, lo ringrazio. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti. Senti, io principe del foro mi sembra un principe del foro. Del foro dei procuratori. Tra l'altro ho letto che leggevo l'altro giorno che state diventando ricchissimi, Chi l'ha detto? Qualcun altro forse. Vai in un'altra parrocchia, va. Se parli di quello vai da un'altra parrocchia. Senti, allora Milan closing, sì. Mercato. Sì. Dimmi qualcosa. non lo sapessi, ma lo so, come diceva grande tifoso rossonero Massimo Boldi. Niente, credo che dalle ultime, insomma, la situazione sia abbastanza in evoluzione, nel senso che, insomma, domani dovrebbe esserci l'annuncio di quelle che è la compagine del fondo, sì. E di conseguenza, se ci sarà un annuncio della compagine, a questo punto, poi che sia il closing il 12 o il 13 di dicembre, ci sia un pochino di ritardo, questo non lo so, ma la situazione mi sembra abbastanza indirizzata. Sì. È chiaro che c'è una tempistica di mercato di gennaio da affrontare. Appunto. Per una squadra che era partita contro il pronostico di tutti per essere una stagione ancora di transizione, invece potrebbe recuperarla, perché come ho sempre detto, Montella, senza ingerenze dall'alto, lasciato lavorare con tranquillità, ha messo la sua mano su questa squadra e i risultati si stanno vedendo. Assolutamente. È chiaro che se nelle prossime partite, quindi da quando finirà, diciamo, l'anno, e quando si aprirà il mercato di gennaio, il Milan dovesse ancora essere nella posizione in classifica in cui è, con dei cinesi, una nuova proprietà. È chiaro che non è che una proprietà si può presentare e dire no, vabbè, aspettiamo un attimo e vediamo che succede. Qualcosa dovrà essere fatto, intervenire su questa squadra, magari in qualche zona del campo dove fondamentalmente hanno un pochino più bisogno. Magari, sì, magari davanti c'è un centrocampista. Balla a nome di Fabregas, è un'idea plausibile a quest'ora con ancora casino. Io sono sempre stato dell'idea, e fortunatamente la storia mi ha quasi sempre dato ragione, io non vado a prendere i giocatori. Se un giocatore non è buono per il Chelsea, non è buono neanche per il Milan. Se Conte non lo fa giocando al Chelsea, un motivo ci sarà. E se il Milan vuol tornare a vincere il campionato, a vincere la Champions League, come ha sempre fatto, l'ha sempre fatto prendendo i giocatori che che si stanno affermando, non giocatori già affermati, ricchi, probabilmente senza motivazioni e altre cose. O sul viale del tramonto, come mi sembra. Assolutamente, Fabregas. Ripeto, se il Milan si vuole posizionare nella fascia, diciamo, delle prime 16 squadre europee, diciamo, passare il turno preliminare di Champions League e altre cose, non può prendere un giocatore che non gioca in una di queste squadre. Certo. Il Chelsea, se vuole andare a prendere, vada a prendere N'Golo Kanté. Allora sì, è un giocatore che però Conte non te lo dà. Se ti dà Fabregas, dice ti do Fabregas. No, Fabregas te lo fai giocare te, e io mi voglio N'Golo Kanté, hai capito? È chiaro. Sono queste le situazioni. È chiaro. Però bisogna anche definire chi c'è a fare il mercato. Parlare di per nomi, me è molto delle prematuro. Figurine o delle altre cose. È molto prematuro, anche per le ragioni di qui sopra, quelle che abbiamo spiegato. Senti, quale centrocampista per la Juventus? Si sentono un sacco di nomi, compreso Yaya Touré. No, no, è il solito discorso, è il solito discorso. La Juve cerca un centrocampista, si sa, ma cerca un centrocampista particolare. Quindi cerca più una mezzala che un centrocampista davanti alla difesa. È evidente che se lo Zenit dovesse mollare una cifra con un accordo che possa andare bene alla Juventus Witzel, credo che non sia nascosto un obiettivo come Witzel per la Juventus. Quindi andrà su quello. La Juventus cerca un centrocampista, diciamo una mezzala, che possa fare anche all'occorrenza magari prendere il posto di Marchisio davanti alla difesa, ma più un giocatore alla Chedira, un giocatore di quantità, di sostanza, un giocatore, una mezzala forte. Ecco, ma questo. Si dice che il centrocampo della Juventus manchi di talento, manchi di scintille, manchi di fantasia, manchi di queste cose. Dai, la fantasia magari, cioè, non è detto che ci voglia anche la fantasia, comunque c'è Pjanic che è messo nella condizione di giocare nel suo ruolo preferito, che secondo me è più appunto un giocatore di qualità che un giocatore davanti alla difesa, all'inserimento, al passaggio, alla punizione, sa fare il gol, potrebbe essere quello l'uomo in più. La fantasia non è necessariamente, non bisogna andare a cerco. Prendiamo Zidane allora, va bene, ok, grazie, arrivederci, Zidane non c'è più, non si può neanche prendere, e se ci fosse in questo momento non credo che le squadre italiane potrebbero... No. Né Zidane né altri giocatori. Senti, altro argomento epocale, da Muriel ormai lungo del gente Pavoletti, giocatore che tutti vogliono, ma abbiamo visto pochissimo perché poveretto, quasi sempre infortunato. Da Zaza a De Frel, quale centravanti per il Napoli? Sai, centravanti del Napoli ci vuole un giocatore particolare, perché Sarri ha un modo di giocare abbastanza particolare, ci vogliono delle situazioni così. Io non ho sempre nascosto che il giocatore, dal mio punto di vista, poi non faccio né l'allenatore né il direttore sportivo del Napoli, esprimo un'opinione da uno che ha 27 anni che segue calcio. Pavoletti. Sarà importante, secondo me. Uno, ci hanno insegnato a Napoli che preferiscono prendere i giocatori, a meno che così hanno preso Milik, però preferiscono sempre andare su giocatori che conoscono. Sì. Credo che sia Pavoletti. Poi, se da qua a queste partite il Genoa dovesse acquistare una situazione di classifica abbastanza tranquilla, che è così, allora dietro un esborso economico importante credo che sia Pavoletti il giocatore da prendere. Più un giocatore, cioè anche qua un giocatore senza nulla togliere a Zaza, però Zaza è un giocatore che è nato all'estero, ha fatto un grande contratto, adesso sta giocando poco, rientrerebbe sicuramente un giocatore valido, però io prendo Pavoletti, che è in crescita, è arrivato a Genoa, sta facendo bene, mi ricordo i giocatori che sono andati via dal Genoa, insomma, Milito è arrivato al Genoa, ha fatto bene, è andato via, ha fatto quello che ha fatto. Non vado a prendere un cavallo di ritorno da qualche altra parte. Questa è un pochino la mia, anche perché, ripeto, poi andare a prendere a gennaio un giocatore che si adatti subito al campionato italiano non è facile. Bisogna trovarlo. Un giocatore che, come tutti ci auguriamo, il Napoli possa passare il turno in Champions, possa essere eleggibile per la Champions, non è facile neanche quello. E quindi gli obiettivi sono un pochino quelli. Sì, gli obiettivi sono quelli. Grazie Fabio, ci sentiamo presto. Grazie a voi, un abbraccio. Alla prossima. Ciao Fabio Baresi. Ciao. Allora, adesso torniamo negli Stati Uniti. New York, Simone Sandri. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Abbiamo parlato prima con Andrea D'Amico, suo procuratore di Giovinco. Vabbè, finale del campionato americano, finale dell'MLS al secondo anno con il Canada che per la prima volta potrebbe fregiarsi del titolo, non è male. Facciamo tutti il tifo per Giovinchino, no? No, non è male soprattutto per come si è caricato sulle spalle una squadra che comunque è una buona squadra. Ha fatto un'altra stagione eccezionale, 17 gol e 15 assist in regular season, 4 gol e 4 assist nei playoff. Ieri non ha giocato granché bene, è uscito per questo crampo che sembrava uno stiramento, ma alla fine sembra essere soltanto un crampo, sì, per cui dovrebbe essere disponibile sabato 10. E sì, però sicuramente dobbiamo essere onesti e sinceri e dire che la parentesi americana di Zorinco è stata decisamente positiva e sta dimostrando comunque, a prescindere dal valore del campionato, che non è così scarso secondo il mio punto di vista come dicono tanti detrattori, che comunque sta facendo veramente bene Zorinco. Favorita Seattle o Toronto? Toronto, sicuramente Toronto, secondo me è veramente una buona squadra. Seattle, il suo miglior giocatore anche fuori, che è Clint Dempsey. Sicuramente Toronto è la squadra che è favorita, la favorita ad est, ma sicuramente la vedo anche favorita contro Seattle. Senti, invece andiamo a parlare di quelli dei canestri. Rientrato Gallinari finalmente, che sì, non è rientrato con questo problema muscolare a tre partite. Ieri ha fatto 17 punti. I Nuggets purtroppo sono un po' up and down. È una squadra che potenzialmente potrebbe anche fare bene, ma non riescono ad avere consistenza. Bellinelli sta facendo molto bene, invece, se vogliamo parlare di italiani, a Charlotte, una squadra che adesso ha rallentato un po', ma ha iniziato la stagione alla grande. Bellinelli nelle ultime partite sta andando molto bene, sta tirando molto bene anche da tre. Per cui il contingente italiano si è ridotto a due, adesso sta andando abbastanza bene. Senti, ma quali segnali ha dato il primo mese di NBA? Il primo mese di NBA ha detto che Golden State, dopo aver perso queste due prime partite all'inizio della stagione, ha trovato la marcia giusta, adesso ne ha vinte 12 consecutive ed è la squadra di fenomeni che pensavamo tutti che fosse, non ci siamo sbagliati su questo. Quindi Golden State è una squadra da battere senza dubbio. Kevin Durant sta giocando alla grande, sta mettendo 27 punti di media. Dall'altra parte c'è Cleveland, che è una spanna sopra tutti. Adesso sì, ci sono, secondo me, un po' possiamo definire le grandi sorprese, che sono i Lakers. I Lakers, che hanno vinto già 10 partite l'anno scorso, hanno vinto 10 partite a febbraio e adesso ieri hanno vinto la loro 10ª partita. Per cui i Lakers, secondo me, sono la grande sorpresa di questo inizio di campionato. E la grande delusione, per quanto mi riguarda, è Minnesota, che ha perso ieri con i Knicks, che è una squadra, secondo me, potenzialmente pazzesca, con un sacco di giovani, ed ha uno dei peggiori record della Lega quest'anno, ed è, secondo me, assolutamente incomprensibile. Grazie Simone, ci sentiamo presto. Grazie anche con te. Grazie Simone Sandri da New York, con il quale chiudiamo questo programma. Vi ho promesso prima che una parentesi sulle genovesi la faremo domani per ragioni di tempo, e domani ovviamente sarà il giorno di Napoli-Inter, sarà la vigilia di Juventus-Atalanta, avremo le voci degli allenatori, discuteremo del derby di Roma. Insomma, gli argomenti ce ne sono sempre tanti per i nostri convocati. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione, e vi do appuntamento dopo l'Europa, poco dopo le 14.